Sarò brevissimo, intanto accolgo e saluto il Vescovo Luigi, io ho l'onore che fra Vescovi ci diamo del tu. Lui è diventato Vescovo quando io nascevo, quindi c'è un abisso, chi è di costì non potrà mai andare di costà, dicevo un tempo. E sono molto contento che lui ci introduca in questa riflessione, per il suo passato, per la sua saggezza e per questa libertà evangelica che io nelle poche occasioni che ho avuto anche come vescovo di incontrarci, soprattutto gli esercizi spirituali, dove lui prega più di me, più a lungo e più bravo, ma questa grande libertà che nasce dalla sapienza del Vangelo in lui ho trovato, mi ha sempre colpito. Quindi benvenuto Vescovo Luigi, grazie di essere qui. E accogliamo con gioia quanto tu vorrai dirci, che è frutto non solo di studio, ma evidentemente di 100 anni di vita e anche di 100 anni di impegno anche un po' rivoluzionario. D'altronde Emiliano Bolognese non potrebbe che essere così. Grazie e buona serata e buon ascolto a tutti. Bene, quindi lascio la parola a Francesco Scalfari, che ringrazio per accompagnarci in questo incontro. Grazie. E buonasera e benvenuti a tutte e a tutti. Sì, io in modo molto, molto umile, molto, molto modesto mi accingo a introdurre più che a moderare questo incontro, perché veramente stare accanto a un protagonista della vita spirituale, religiosa e culturale degli anni che alcuni di noi hanno vissuto in modo più intenso e altri più giovani hanno vissuto magari leggendo e studiando sui libri, comunque è un'emozione molto, molto forte. E voglio rinnovare i ringraziamenti a Monsignor Bettazzi per il dono preziosissimo che fa alla nostra comunità e alla nostra diocesi. E in effetti hanno intrapreso un viaggio non lunghissimo, ma comunque impegnativo, e quindi questo ci fa veramente molto molto piacere. Ed è veramente molto significativo iniziare questo ciclo di incontri proprio con lei, Monsignore, perché come è stato già anticipato dagli interventi precedenti, e ringrazio il nostro Vescovo Monsignor Prastaro per la sua introduzione, così come il direttore Stefano Zecchino per l'ospitalità che offre a questi incontri. Lei è in qualche modo un testimone diretto, forse l'ultimo di quegli anni veramente significativi, sia per diciamo la situazione oltremodo drammatica che si viveva e si respirava, ma al tempo stesso per i profondi segni di speranza e di fiducia che furono semi di speranza e di fiducia che furono gettati. Perché brevemente voglio ricordare, sono gli anni della contrapposizione, il 1900, gli anni intorno al 1963. Usiamo questa data di riferimento perché vabbè, è la data proprio di pubblicazione dell'enciclica Pacem in Terris, proprio la data precisa l'11 aprile, quindi proprio i giorni di Pasqua, se ricordo il giovedì santo di quell'anno. E, peraltro è anche l'anno, come è stato ricordato, in cui lei fu nominato poi da Paolo VI, se ricordo bene, quindi dopo la scomparsa di Giovanni XXIII dal successore, da Paolo VI, vescovo. E quindi anche questo ci fa molto piacere, diciamo, ricordare e festeggiare insieme a lei questo anniversario. Dicevo, anni tragici, drammatici, perché c'era la contrapposizione tra i due blocchi, il blocco rappresentato dai paesi occidentali, con capofila gli Stati Uniti, e il blocco sovietico, che però non era una contrapposizione puramente teorica. In quegli anni si sono realizzati anche proprio dei fatti molto drammatici che hanno pesato, che hanno influito pesantemente sulla vita delle persone. Ci sono state delle guerre, dei conflitti, ci sono state delle minacce nucleari. La vicenda dei missili a Cuba, da cui molto probabilmente finisco da cui molto probabilmente appunto nasce anche dopo una serie di incontri, di interlocuzioni, nasce appunto l'enciclica stessa. E chiudo dicendo, per passare la parola a Monsignor Bettazzi, una enciclica estremamente significativa e ancora oggi di attualità, assolutamente di attualità, vista la situazione altrettanto drammatica, tragica che stiamo vivendo per la guerra, per le guerre in corso, decine e decine di guerre in corso, e per la situazione drammatica che stanno vivendo centinaia di migliaia, se non di milioni di persone in tutto il mondo. No, chiaramente lungi da me volere assolutamente, ma non volevo nemmeno, diciamo, sottrarmi a questo, diciamo, comunque bel incarico che mi è stato affidato di presentarla e di introdurre la sua relazione. Quindi le passo molto volentieri la parola e resto anch'io in ascolto per continuare ad imparare sulle enciclica e su quegli anni. Ecco, buonasera a tutti, un saluto particolare al vostro vescovo. La sua presenza un po' mi imbarazza, ma dà tranquillità, perché se dico delle cose un po' storte lui le metterà a posto. Dicevo che mi imbarazza perché non ho il discorso scritto. A me non piace avere il discorso scritto, anche le messe della domenica, quando leggono il tema svolto, no, che sono messe anticonciliari, perché la gente non partecipa, siccome è uno spettacolo, la televisione, la cantoria deve far tutto lei, eccetera, eccetera. Dicevo che non ho preparato il discorso scritto, e tanti sanno che molti anni fa, in una piccola città del nord-est, era un gran teatro, un pubblico qualificato quasi come voi. E allora dissi: io chiedo scusa che non ho il discorso scritto. E l'organizzatore, forse un po' emozionato, disse: no, no, monsignore, può parlare a vanvera. Ed è quello che farò questa sera, di parlare a vanvera. E ammiro questa serie di conferenze, perché finite con lo sviscerare completamente la pace minteris. E allora io dirò due punti. Il primo, un punto che normalmente non viene ricordato. Il secondo è un punto che normalmente non viene attuato. Il primo punto non ricordato è che la pace minteris è rivolta a tutti gli uomini di buona volontà. E per la prima volta un Papa, invece di rivolgersi ai cattolici, ai cristiani, si rivolge a tutti gli uomini di buona volontà. È vero che ci sono tanti temi, la verità, la libertà, anche sul piano internazionale, tanto che un mio prete, non dico il nome perché poi è diventato cardinale, un mio prete disse: è una enciclica politica, non so se voleva squalificarla. E io dico sì, che è politica, ma che è anche profondamente religiosa. Ha influito enormemente sul Concilio Vaticano II. accennava prima come è nata che c'era stata il tentativo da parte degli esuli cubani dalla Florida per sbarcare a Cuba. Io chiedo scusa alle signore perché era nella Baia dei Porci. Ma Fidel Castro riuscì a ributtarli a mare. Dice: ma come faccio? Quelli sono più di 250, noi siamo 50 milioni. L'unica che venga l'America è la Russia, e aveva chiesto la Russia, c'era Crucio, e quella mette in mare delle navi con le bombe atomiche. E Kennedy, America, disse: o fermi le bombe o bombardo Cuba. Crucio non poteva fermare le bombe, sennò faceva vedere che era condizionato dall'America, che avrebbe dovuto bombardare, sennò faceva vedere che era condizionata dalla Russia. Nessuno dei due voleva la guerra, ma non potevano più tirarsi indietro. E fu lì che Kennedy provò dal Papa. Il Papa sentì da Khrushchev attraverso i comunisti. E poi nell'autunno del 62 fece un famoso appello: politici del mondo, fermatevi. Il mondo non vuole la guerra, vuole la pace. E fu facile per i due, senza perdere la faccia, dire: allora mi fermo, allora mi fermo. E fu così colpito Papa Giovanni d'essere stato strumento della pace nel mondo civile, nel mondo politico, che pensò a questa lettera che è uscita l'11 aprile del 63. È un po' il suo testamento spirituale, perché poi lui è morto il 3 giugno del 63. Nel 63 il concilio era cominciato nel 62. Sembrava che non fosse un granché. Papa Giovanni, insieme al sinodo, al concilio, aveva annunciato anche il sinodo romano. Quella se la sono cavata in 3 giorni, perché hanno preparato i documenti e li hanno votati. Per il concilio avevano preparato 70 documenti, le commissioni tutte presiedute da cardinali romani, per sicurezza. E si diceva anche prima, io che ero fuori, se la caveranno presto. E poi invece durò tutto un anno. E il secondo anno, il secondo periodo, io diventai vescovo nel 63. Ricordava Paolo VI. Perché pare che il mio arcivescovo, il cardinale Ercaro, avesse combinato che io diventassi vescovo ausiliare, e che l'ausiliare che c'era prima, un certo Monsignor Baroni, andasse ad Albenga, poi andò a finire a Reggio Emilia. E diedero da firmare al Papa. Quando il Papa ha visto Baroni ad Albenga, sì, ha firmato. Poi gli amici dicono, degli amici ti guardi Dio, quando ha visto Bettazzi vescovo ha preferito morire. E allora sono difatti uno dei primi votati da Paolo VI. E quando arrivai al concilio avevano già preparato, ma sembrava che fosse un concilio tutto interno. E io ricordo allora, appena arrivato in concilio, che stavano parlando della pacem in terris e del rumore che aveva fatto nel mondo. E allora noi vescovi dicevamo: e noi che figura ci facciamo? Avevano già raccolto alcuni temi così, hanno pensato di fare una enciclica su questi temi, e rivolta anche questa a tutti gli uomini di buona volontà. È chiamata enciclica pastorale. Perché? Perché quando Papa Giovanni aveva indetto il concilio, aveva detto: non deve essere tanto un concilio dogmatico. I concili dogmatici vuol dire: questo è il dogma, la verità. Chi non ci sta scomunicato, anatema sit. Il grande concilio di Trento diceva, alcuni dicono così, che erano poi i protestanti. Non è vero, la verità è questa, chi non si sta scomunicato, ale. Quelli erano i concili. E Papa Giovanni dice, no, non abbiamo bisogno di dividere. Pastorale. Pastorale vuol dire dirlo in modo che la gente capisca e lo accolga. Tant'è vero che c'era una minoranza, era un 500 su 2500, e c'erano, mica fate la spia, c'era tutta la curia vaticana o quasi, e dicevano, ma non pastorale. Allora si raccontava una barzelletta, si può raccontare, era una barzelletta che raccontavamo in concilio, che c'era il famoso cardinale Ottaviani, quello che era al Santo Uffizio, come è stato poi Ratzinger, che una mattina si sveglia tardi, chiama il taxi e dice portami in fretta al concilio. Entra nel taxi e si riaddormenta. Dopo mezz'ora si sveglia, era in aperta campagna. E dice al tassista, ma dove mi porti? Al concilio di Trento. Perché quello era un vero concilio, Ecco, e allora noi abbiamo fatto questo documento che è rivolto a tutti gli uomini di buona volontà. Perché è importante? E ha poi dato la spunta anche agli altri documenti del Concilio. Perché una volta si diceva, questa è la verità, come viene dal Vangelo. Chi non ci sta è fuori, è di là. La Gaudium et Spes dice qual è la vera umanità, la genuina umanità. Allora dice tutte le cose secondo il principio genuino dell'umanità. Come deve essere la persona umana, come deve essere la famiglia, come deve essere l'economia, come deve essere la politica. Qualcuno dice, ma allora dove va a finire il Vangelo? Allora, alla fine di ogni capitolo, dice, e il Vangelo dice così, ma allora non è noi sì e gli altri no, ma è tutti così e noi tanto più. Noi come cristiani tanto più. Ecco, questa è la grande novità della Gaudium et Spes, di rivalutare quello che c'è di genuino umano anche nei non cristiani, nei pagani, negli atei, in tutti, quello che c'è di genuino umano e tu tanto più come cristiano. Dicevo, questo ha dato l'impronta a tutto il concilio, perché prima sembrava che il concilio fosse una cosa interna. Invece di 70 documenti sono poi stati 16, divisi in tre tipi. Tre dichiarazioni. Le dichiarazioni sono su punti particolari, anche importanti, come la libertà religiosa, ma un punto particolare. Poi ci sono 9 decreti. Cosa devono fare i cristiani, i vescovi, i preti, i seminaristi, i missionari, i laici? Ma in tutti i 20 concili ecumenici, adesso col cellulare nessuno impara più niente a memoria, a noi ce li faceva imparare a memoria. Nico e fka, coco nico, la, li li viengos fir la trevat. Nico e fka, Nicea, Costantinopoli, Efeso, Calcedonia. Coconico, Costantinopoli 2, 3, Nicea 2, la Terenense 1, 2, 3, 4, Lili, Viengos, Lione, Vienna, Costanza, Fir la Trevate, Firenze, Laterano, Trento, Vaticano I. Ecco, in tutti i 20, in tutti, è tutta colpa di una volta, in tutti i 20 concili, i documenti più importanti sono sempre state le Costituzioni. E qui erano 3, sulla parola di Dio, sulla liturgia, sulla Chiesa. La parola di Dio è la liturgia, la Chiesa. Ecco lì, la Gaudium et Spes subito ha fatto pensare alla rivoluzione della Costituzione sulla Chiesa. Perché una volta la Chiesa, un po' anche adesso, quando si dice la Chiesa, si pensa il Papa, i Vescovi, i Preti, e i laici, E in America Latina dicevano, è come una piramide, in alto c'è il Papa, i Vescovi, i Preti, e sotto i laici. Brum! La Chiesa è il popolo di Dio, tutti i battezzati, In alto sono i battezzati. Ci vuole anche la gerarchia, ma al servizio del popolo di Dio. Non al di sopra, ma al servizio del popolo di Dio. Ecco, voi vedete come la Gaudium et Spes ha aiutato a capire la Chiesa, a vivere la Chiesa. La prima Costituzione fu sulla liturgia. La liturgia è cominciata il popolo di Dio, ma deve capire. Una volta si andava a messa, il prete borbottava la messa in latino e sotto dicevamo il rosario. In un seminario, il primo in cui sono stato, facevano la meditazione. Primo punto l'inizio, secondo dopo la consacrazione, colloquio dopo la comunione. Ma no, non è la preghiera del prete, è la preghiera del popolo di Dio. Deve capire, allora la lingua del popolo di Dio, Vedete? Ecco la rivoluzione. E anche la Bibbia. La Bibbia una volta era proibita, Io ricordo sempre che a Manfredonia volevano che andassi a vedere una abbazia che stavano facendo, e chi mi accompagnava era un medico che durante il concilio aveva studiato medicina a Bologna. C'era il cardinale Ercaro, aveva comprato la Bibbia. Quando sua mamma ha visto che aveva la Bibbia, è andata a fare la spia dal parroco. E il parroco è arrivato subito e ha detto: non si legge la Bibbia. Perché allora leggere la Bibbia era diventare protestanti. Ecco, questo voi vedete, è vero, io dico, che insieme al rinnovamento è anche il segno dei limiti del Concilio. Perché la liturgia, sì, è nella lingua della gente, ma ci sono ancora troppe nostalgie della messa in latino, della messa di una volta. La messa è ancora la preghiera del prete. La Bibbia, sì, si legge di più, ma mica tanto. È anche la gerarchia, eccettuata Asti, anche la gerarchia la cita poco, perché non si sa mai, se tu citi la Bibbia, chissà cosa tirano fuori. E allora con calma e con prudenza. E anche la Gaudium et Spes, perché è vero che dice i valori dell'umanità, ma rimane ancora l'idea di dire quello che è di Chiesa, cristiano, ecclesiastico, sì, il resto un po' meno. Prima noi, Ecco, allora, le quattro Costituzioni sono il segno del progresso, ma anche in qualche modo sono il segno dei limiti, E con questo ho finito la prima parte, l'ho detta tutta, Quella non ricordata, cioè che è una Chiesa rivolta a tutti gli uomini di buona volontà. Avevo portato la pace minteris, ma se la leggete troverete, sono tre o quattro punti, soprattutto uno verso la fine, dove parla degli uomini di buona volontà. E anche la Gaudium et Spes, c'è un punto in cui dice. Il secondo è quella che è poco attuata. E qui c'è una famosa frase, nella pace in terris. Questa ve la leggo. Dove dice? Vero è che sul terreno storico la persuasione che bisogna camminare verso la pace è piuttosto in rapporto con la forza terribilmente distruttiva delle armi moderne ed è alimentata dall'orrore che suscita nell'anima anche solo il pensiero delle distruzioni immani e del dolore immensi che l'uso di quelle armi apporterebbe alla famiglia umana. Per cui riesce quasi impossibile pensare che nell'ora atomica la guerra possa essere utilizzata come strumento di giustizia. La traduzione è un po' diplomatica. Dice, sembra quasi impossibile pensare. In latino è alienum a ratione. Alienum a ratione vuol dire fuori della ragione, vuol dire è una pazzia. Dice che la guerra è una pazzia. Ed è quello che ripete Papa Francesco. La guerra è una pazzia. La guerra! Ah, dice, ma è diversa. Noi abbiamo sempre detto sì, ma c'è una guerra di occupazione, una guerra di difesa, c'è la guerra preventiva, c'è la guerra umanitaria. La guerra è una follia. Ed è una follia la guerra di invasione, ma è una follia anche la guerra di difesa. Ma allora? Anche questo è entrato in concilio. Anche questo ve la leggo. Perché nella Gaudium et Spes, al numero 80, dice, sta parlando del progresso delle armi scientifiche, eccetera, riprende in qualche modo la pace in terris. Tutte queste cose ci obbligano a considerare l'argomento della guerra con mentalità completamente nuova. Sappiano gli uomini di questa età che dovranno rendere severo conto dei loro atti di guerra, perché il corso dei tempi futuri dipenderà in gran parte dalle loro decisioni di oggi. Avendo ben considerato tutte queste cose, questo sacro concilio è solenne, facendo proprie le condanne della guerra totale già pronunciata dai recenti sommi pontefici, dichiara: ogni atto di guerra che mira indiscriminatamente alla distruzione di tante città di vaste regioni e dei loro abitanti è delitto contro Dio e contro la stessa umanità e va condannato con fermezza e senza esitazione. La guerra totale, allora si diceva che la guerra totale è ABC, atomica, biologica, chimica, ma la guerra totale è quella che coinvolge città intere, popolazioni civili. Ditemi oggi se le guerre non sono tutte guerre totali. È da condannare in ogni modo. Ma allora bisogna accettare l'invasione? Bisogna accettare l'oppressione del prepotente? Dipende con che mentalità la guardi. E qui devo citare, io ho Una grande riconoscenza per l'America. Ci hanno salvato nelle prime due guerre. Ma la guerra all'America adesso con la NATO sta alimentando la mentalità armata. La NATO fu fatta quando c'era l'alleanza militare russa, bolscevica. Caduto il muro di Berlino, noi abbiamo promesso due volte a Gorbaciov che avremmo eliminato la NATO. E invece non solo non l'abbiamo eliminata, ma l'abbiamo estesa a tutti i paesi che prima erano con l'alleanza russa. E adesso stavamo entrando anche nell'Ucraina. L'Ucraina dalla Russia è considerata la madre patria anche religiosamente. Il patriarca di Mosca prima era Kiev, poi è andato a Mosca. Ora che anche l'Ucraina possa entrare nella NATO, io non finisco di condannare Putin per quello che sta facendo, che è contro tutta l'umanità. Ma noi gli abbiamo offerto l'occasione e la spinta. Lui dice no, no, la NATO non può arrivare all'Ucraina, se no è da noi, eliminiamo. Ecco, allora io, ma perché? Perché la NATO è una associazione militare il cui capo è un generale americano. Quindi con la NATO l'America è sicura che fa i suoi interessi. Ed è l'America che per mantenere il suo predominio non vuole che ci sia il predominio della Russia. E allora vedete che ormai la NATO è diventata una garanzia di sicurezza perfino la Finlandia, quei paesi là, per i paesi che erano con la Russia prima, sono nella NATO. Ripeto, non voglio criticare l'America, ma voglio soltanto constatare. E allora bisogna lasciare che i prepotenti facciano di testa loro? Bisogna trovare il modo di rispondere non con la mentalità armata, ma con la mentalità non armata. Cioè, ma la mentalità non armata c'è? Gandhi ha ottenuto l'indipendenza dell'India senza le armi. Martin Luther King ha ottenuto il riconoscimento dei neri senza, è vero, poi li hanno fatti fuori, si capisce, perché la mentalità armata non sopporta la mentalità non armata. Ma soprattutto noi cristiani, Gandhi diceva che ha imparato la non violenza anche dal Vangelo, ma che non si è mai fatto cristiano perché ha visto quanto poco i cristiani in questo campo mettono in pratica il Vangelo. E allora c'è un altro mezzo che è la diplomazia. Ma la diplomazia bisogna crederci. L'Europa si è rivolta diplomaticamente alla Russia dopo 60 giorni che c'era la guerra. Tanto sapeva che non contava niente, perché quello che conta è la NATO. Quindi insistere, trovare delle strade, no? Ma essere convinti di trovare le strade, come invece non si è convinti. E allora lo si fa più per dire, ma sì, ho provato, ma con la Cina, ma qua, ma là. una diplomazia convinta. E poi c'è un terzo mezzo di cui ben poco si parla, che è l'interposizione, il mettersi in mezzo fra le due armate. Ecco, io posso citare un caso, anche se ci sono stato anch'io, ma io non sono così coraggioso. Quando proposero di andare a Sarajevo, dove l'esercito serbo opprimeva la città, chiesero anche a Pascristi, io non sono coraggioso, il presidente era Tonino Bello, ma Tonino Bello era molto malato, lo feci più per lui. Dissi, senti Tonino, vado io al tuo posto, così tu ci sei in qualche modo. Poi quando fummo ad Ancona a prendere la nave, c'era anche lui col fratello. E allora ho finito che sono andato anch'io. A Spalato ci dissero, non andate, c'era anche il vicario generale a nome del vescovo, non andate. Noi abbiamo deciso di andare. Abbiamo dovuto fare delle strade secondarie perché Mostar era bloccata. Quando arrivammo a pochi chilometri da Sarajevo, tutto era bloccato. L'ONU aveva permesso di portare una volta al giorno alimenti e rientrava alle 4. Disse non andate. S'andò a parlare con i serbi, dissero, ma sì, il giorno dopo c'erano degli altri capi, ci tennero un giorno intero a 10 chilometri. E poi ci permisero, dopo un giorno intero, dopo essere venuti a guardare tutti i bagagli, a vedere se non portavamo armi, a tenere, il Veneto aveva dato due ambulanze a tenerne una con 12 persone in ostaggio. Siamo entrati e arrivati alla sera, c'era il coprifuoco, quindi nessuno ci aspettava, trovammo posto in un grande, in una palestra enorme di un grande istituto, che noi andammo a finire all'ultimo piano perché eravamo gli ultimi. Ci dissero, beh, al massimo se arrivano le bombe, voi sarete i primi. Ecco, e il giorno dopo ci dividemmo in quattro. Tonino Bello andò alla cattedrale cattolica, io alla cattedrale ortodossa, un gruppo alla moschea e un gruppo alla sinagoga. Poi ci trovammo tutti in un cinema al buio, ma con le fiaccole. Lì il grande discorso di Tonino Bello. Primo, non siete soli, qualcuno pensa a voi. Secondo, solo con la non violenza si può arrivare alla pace. E per quel giorno, l'interposizione, non hanno sparato. Poi hanno permesso anche ad altri di andare. Ecco, l'interposizione vuol dire andare in mezzo fra i due eserciti, i quali devono per forza fermarsi. Ma perché non si è fatto? Io credo che chi poteva e forse doveva farla era l'ONU. Ma l'ONU è ormai non democratica. Da quando 5 paesi, per aver vinto 80 anni fa una guerra, hanno il diritto di veto. America, Inghilterra, Francia, Russia, Cina. Basta che uno di questi 5 metta il veto, non si fa più niente. Israele, perché continua ancora adesso a occupare il territorio, a fare delle colonie nel territorio dei palestinesi. Perché l'America ha sempre detto veto. Perché la Siria ha potuto fare quel che voleva? Perché la Russia ha detto. Perché adesso non si può fare? Perché la Russia ha messo il veto. Finché sono i cinque veto, l'ONU non sarà mai in grado di compiere veramente la sua opera. Ecco, allora queste sono le tre mete perché andare contro la guerra che è una follia. Alimentare la mentalità non violenta, alimentarla in noi attraverso i singoli, alimentarla nell'opinione pubblica, che non sembra una resa, adesso dice quello è per Putin. No, sono per la non violenza. Il secondo, allora, è fare sinceramente della concreta diplomazia, insistere finché non si ottiene e trovare il modo di fare le interposizioni ottenendo che ci siano delle maggioranze qualificate nell'ONU, ma che non ci sia più il veto. Queste sono le due cose che io ho voluto ricordare della pace interis. Una non ricordata, una non attuata. E adesso auguri, continuate a sviscerare la pace interis. Amen. Grazie, grazie, grazie. Sono tutti contenti che abbia finito. No, penso proprio di no. Anzi, se permette, ci concediamo ancora qualche minuto, magari se c'è qualche domanda, qualche intervento da parte degli intervenuti, anche perché per noi questo suo intervento, queste sue parole sono molto significative, perché la comunità di Asti, la diocesi di Asti è sul nostro territorio ormai dall'inizio del conflitto in Ucraina è impegnata nel promuovere la pace con interventi, con manifestazioni, con presidi. E quindi la sua presenza e le sue parole ci hanno dato nuovo slancio, ci hanno dato tanti spunti su cui continuare a riflettere e continuare a impegnarci, ma anche ci hanno dato veramente nuovo slancio. Credo che veramente dobbiamo tutti quanti continuare su questa strada, e ciascuno di noi per quello che può fare. Ma è sicuramente tanto, per appunto raccogliere le sue parole, quindi è una responsabilità poi anche del singolo attuare quella che anche nell'enciclica è citata come il disarmo culturale, quindi adottare tutte quelle pratiche, quegli atteggiamenti, quei linguaggi che privi di ogni forma e sostanza di tipo bellicoso, bellicista. Quindi questo per noi deve essere di stimolo e di auspicio per quello che appunto possiamo fare quotidianamente durante i nostri momenti collettivi di presidio. Prego, io chiederei se c'è qualche... Nessuno vuol mai essere il primo, può cominciare il secondo. Se ci sono domande... Stefano Zecchino vi porta il... Se avessimo un'opposizione in comune, io proporrei di chiedere al sindaco perché non è venuto e perché non è venuto il comandante dei carabinieri. È un principe della Chiesa e secondo il concordato dovrebbe essere presente la forza pubblica, perlomeno essere presente l'amministrazione. Grazie. Ha sottolineato l'assenza in questa conferenza dell'amministrazione, dell'autorità pubblica della città, amministratori, forze dell'ordine, quindi una disattenzione da parte dei nostri amministratori nei confronti di queste, della sua presenza innanzitutto, della sua presenza e dei temi che lei ha vissuto e continua a trattare. Perché Bettazzi si sa che è un po' avanzato, eh? Qualcuno diceva è un vescovo di sinistra. No, perfino hanno scritto una mia biografia intitolata Un vescovo mancino, non di sinistra, mancino. Ma allora per questo che qualche volta non ci si può compromettere. Io ho una grande stima di tutti, anche delle autorità di Asti, ma avranno avuto i loro problemi, i loro motivi. Auguro a loro una felice attività. Amen. Se qualcuno ha piacere... Spesso, aggiungo io una cosa un po', spesso le autorità non sono all'altezza o non si sentono all'altezza di certi interventi. Io riflettevo prima su quello che ci ha detto, termino subito, non voglio togliere spazio, appunto Giovanni XXIII, Kennedy e Khrushchev. Appunto, hanno voluto risolvere il problema di 60 anni fa. Non mi sembra che, tolto Papa Francesco, attualmente ci siano dei politici a livello mondiale all'altezza di risolvere, per volontà o per incapacità, all'altezza di risolvere questi problemi. Hai adotto tre capitoli. Il primo... vedere la pace nella bontà. Il secondo era la diplomazia. Chiederei nella diplomazia su quali questioni usare, perché la diplomazia deve portare delle cose dalle parti e quindi guardare all'equilibrio successivo. La terza dell'intromissione la lasciamo agli eroi. Lei ha avuto la fortuna di esserlo stato è sopravvissuto, però non siamo tutti sicuri. Vuole un approfondimento dei tre punti trattati, non violenza, diplomazia e interposizione. Certo. Il Signore vorrebbe un approfondimento sulla diplomazia, come si può effettivamente realizzare. Io non sono un politico, so soltanto che bisognerebbe avere più coraggio e più perseveranza, ma sono quelli che sanno di potere. Ho citato l'Europa, perché si è mossa solo dopo 60 giorni? Ecco, cioè, sono loro, ripeto, io... l'ho detto la cosa, ma non sono al di dentro del mondo politico da sapere quali sono le caselle. Solo Europa, non saprei neanche in che modo o quale Europa. Questo toccherà all'insieme dell'Europa, forse anche ai nostri politici, sollecitare ciascuno dove sa, vedete, che per i migranti, come ogni corrente politica orienta, cerca di orientare l'Europa a modo suo. E allora anche qui ogni corrente politica dovrebbe cercare qual è la strada per insistere perché l'Europa, qualche cosa dell'Europa possa fare. Ecco, io credo che il dire la diplomazia, ripeto, non sono un diplomatico io. Dico, ognuno deve vedere, anche se qualcuno ha delle conoscenze in politici, in diplomatici, di dire, ma guarda tu che sei quel posto, che hai quella visione. Io, vi immaginate, uno di 99 anni, che sono 20 anni che sono tagliato fuori, non saprei neanche a chi ricorrere. Ecco, ma allora è aprire una finestra, a quella finestra vedere chi si può mandare. Ecco. E anche l'interposizione, perché allora fu un'iniziativa privata, fu il movimento Beati Costruttori di Pace di Padova, Don Albino Bizzotto. Adesso qui non so se qualche movimento ci starebbe, perché è chiaro che devono essere dei volontari. Allora si trovarono i volontari, adesso ci sono i volontari. Io sono troppo fuori anche da Pascristi, da sapere poi Pascristi, Sant'Egidio, Comunione, Liberazione. Se questi movimenti, io non lo so, se loro pensano che ciascuno riuscirebbe a fare una piccola colonna di volontari che vadano in mezzo. Ecco, questo ho l'impressione che nessuno ci ha pensato, ci ha mai pensato. Io lo dico, ma uno cade dalle nuvole e dice, ah, è vero, ma guarda, stia attento cadendo dalle nuvole a non rovinarsi i calcagni e le gambe, ma insomma, ecco, è una cosa da pensare, da far nascere, ecco, è un seme da vedere se può. Ripeto, io non sono in grado né di fare la diplomazia né di fare organizzare l'interposizione, ma questo non mi dispensa da lanciare le due idee, perché se trovano un terreno adatto per l'una o per l'altra possono anche svilupparsi. Chiedo scusa e grazie. Buongiorno, io mi chiamo Attilio Marocco e sono praticamente una trentina d'anni che ho avuto, come dire, l'opportunità di ascoltare le parole di Monsignor Bettazzi, perché appariva spesso in televisione, a Rai 3, con i suoi interventi illuminanti. Mi ricordo più o meno una trentina d'anni fa, si ricorda forse, quando spesso la intervistavano per vari argomenti, e mi aveva colpito subito per la sua capacità di inquadrare, di analizzare i problemi. E sono belle le sue idee, interessanti quelle che ha lanciato. Peccato che purtroppo sia veramente difficile, ha ragione. In questo caso penso che l'Europa, per quel che può fare, nel senso che poi io non ho la capacità di capire quanto questo possa essere efficace, sta cercando in qualche modo, con la leva economica, se funziona, se potrebbe funzionare, delle sanzioni, se può funzionare. No, non sento neanche lei. Chiedo scusa, allora parlo più forte, solo che ho problemi con le orecchie, allora non parlo tanto forte. Ok, sembrano di sentire, solo che io ho problemi con le orecchie e non parlo tanto forte. No, ripeto, l'Europa sta provando in qualche modo. Perché non avevo capito che avevo parlato troppo piano, perché per le orecchie mie. In ogni caso, qualche cosa l'Europa sta facendo, penso che stia tentando di fare dal punto di vista economico. Ah, per riprendere quello che dicevo prima, per farlo sentire al Vescovo emerito, sono 30 anni più o meno che io ascolto il Monsignor Bettazzi, che mi ha colpito credo dal primo giorno che l'ho sentito, e per quello che oggi sono venuto ero in un altro posto completamente diverso, mi sono fatto portare, ho detto devo andare a sentire Bettazzi perché o adesso o mai più. Comunque, e questa è una crisi difficilissima, perché è veramente molto complessa, e sono contento che ci sia qualcuno che cerchi di proporre qualcosa. Evidentemente speriamo che finisca domani tutto, e speriamo che capiscano che bombardarsi soprattutto verso l'Ucraina è una cosa terrificante per quello che ha provocato, diciamo. In realtà io non ho una domanda, perché volevo più che altro esternare la mia estrema ammirazione. Però estrapoliamo questa cosa. Se vuole. E quindi grazie. Il ruolo delle sanzioni economiche da parte dell'Europa. E questo un po' in sintesi, cioè, quanto possono avere effetto. Quindi la mancanza. Anche questo è un problema al di fuori delle mie capacità, perché bisogna saper vedere cosa c'è. È vero che colpisce molto la Russia, ma ci accorgiamo che colpisce molto anche noi, Ecco. Quindi fa parte anche questo, credo, della mentalità armata. Una volta che hai attaccato, ecco, che attacchi, allora metti anche questo tra le mentalità armate. E mi fa piacere che sia stata una donna, perché nella mia mi sono fatto l'idea, anche nei pochi libri miei che ho lasciato, che nella nostra mente ci sono due dimensioni: quella della ragione, con cui noi conosciamo la realtà, la scienza, la tecnica, è quella dell'intuizione. Noi quando nasciamo non ragioniamo, però intuiamo di essere in un mondo più grande di noi, in un mondo che ci accoglie e che ci incoraggia. Ecco, la ragione, la ragione pare che prevalga nel maschio e l'intuizione nella donna. Noi diciamo, sì, ma è sentimento, no, è intuizione. Ed è attraverso l'intuizione che noi possiamo aprirci al mondo più grande di noi, compreso il mondo religioso. Non è un caso che, adesso meno, una volta, le donne erano più religiose degli uomini. Aperte è l'intuizione e la ragione. E la ragione è quella che dice io e gli altri. L'intuizione è quella che dice noi. Il prevalere dell'io, dei maschi, nei governi del mondo, anche delle chiese, ha portato a tutte le violenze. Le donne, quando vogliono imitare gli uomini, sanno essere violenti anche loro, ma per sé, io dico, non è un caso che l'unica che in Europa si muovesse stimata da tutti fosse la Merkel, che era una donna. Poi ogni donna, anche quella che abbiamo in Italia, ognuno fa la sua politica, ma io credo che anche sul piano della pace le donne sono loro che dovrebbero dare un contributo alla mentalità non armata, alla mentalità non violenta. Sulle sanzioni, ripeto, fa parte della mentalità armata, perché dice, ah sì, così, allora si capisce, se noi abbiamo cominciato con la mentalità armata, che poi dicono perché l'Ucraina deve vincere, è vincere 150.000 morti, anche civili, milioni di esuli, città distrutte, è vincere? Quello è il frutto della mentalità armata di cui fanno parte anche le sanzioni. Io credo che ci sia da riflettere molto. Voi donne dovete aiutarci a riflettere per la mentalità non armata. Amen. Ce n'è ancora una. Se posso ancora una piccola riflessione, intanto grazie. Devo avvicinare così. No, ma è importante che senta lui, poi me lo dice. Sarò breve. Allora, una riflessione che è nata solo la scorsa settimana e che adesso condivido. C'è stato un incontro in una parrocchia, in una sacrestia, con un sacerdote che è arrivato dall'Ucraina, un nostro amico che puntualmente ci viene a trovare, ci porta notizie con dei video, delle foto, e noi lo carichiamo di farmaci e di cose che possono essere utili, e poi lo salutiamo dicendo siamo uniti nella preghiera. Il contesto in cui mi sono trovato quella sera guardando quei video era: stiamo combattendo in maniera armata, stiamo resistendo, l'Ucraina ce la farà. E tutti sembravano inneggiare a questa cosa, perché sembra l'unica strada praticabile. Allora, in maniera un po' imbarazzante, ho alzato la mano e ho usato la parola «sono dispiaciuto», perché mi sembra di vedere che l'unica soluzione a questo conflitto, ma raccontato anche da chi è sul territorio e da un sacerdote, sia la vittoria armata di uno o dell'altro. E che invece altre strade, ho citato solo la diplomazia, non ho citate altre, non vengano perseguite. Eravamo in un contesto come oggi di gente comune, non quindi gli alti livelli, gli stati, la NATO o l'ONU, ma a livello di gente comune la sensazione che ho avuto è che non ci siano alternative a quell'armata. Allora io ho la netta percezione che la strada da compiere per un'educazione alla pace sia ancora molto molto da alimentare, che a volte o si degenera in queste situazioni dove ti sembra che l'unica soluzione possibile sia l'uso delle armi contro la violenza di un oppressore, altrimenti dall'altra parte si fa un po' di retorica legata alla pace. Ma un vero cammino di educazione alla pace io lo vedo molto debole, e mi chiedo se questo potrebbe essere l'appendice operativa che va alimentata alla pace in terris, perché io credo che ne abbiamo un grande bisogno. Sì, si percepisce che la maggior parte comunque delle persone tifano per la vittoria dell'Ucraina, c'è questa percezione diffusa. Sì. E allora chiedeva quale può essere il contributo, ad esempio, dell'educazione alla pace, anche come, diciamo, attualizzazione dell'enciclica Pacem in Terris, per appunto ovviare a questo, chiamiamolo, tifo per una vittoria comunque di una delle due parti sull'altra. Quale ruolo, quale può avere l'educazione alla pace? Se avessi una soluzione diventerei Presidente del Consiglio. Ma ecco, io credo che di fronte alla realtà, dicevo, che vittoria è, sì, che vittoria è. Quindi bisogna attendere non alla vittoria di uno dei due, come la NATO e l'America vogliono. L'America comincia a esitare. Perché? Perché capisce che se Putin usa la bomba atomica, cosa fa l'America? Mica può andare a usare la bomba atomica contro la Russia, diventa davvero la guerra mondiale. Quindi nel timore di questo ho l'impressione che anche l'America adesso è un po' più esitante, perché io credo che bisogna trovare il modo non di far vincere una parte, perché vi immaginate se Putin vuol perdere? È disposto anche la bomba atomica pur di non perdere, ma di trovare il modo di far finire la tregua, cioè di fare una tregua. Questo è il grande modo. Ecco, e questa qui la diplomazia deve riuscire, ma quelli che sono su in alto, a trovare il modo. Vedete anche come provano con la Cina, l'India non si sa, ecco, perché sono quelli i grossi paesi, sono messi insieme. India e Cina fanno quasi la metà dell'umanità, per dire, ecco. Cioè mirare alla tregua delle armi, perché se noi vogliamo tendere alla vittoria di uno delle due, finiamo male, come il Papa teme e come adesso teme anche l'America. E allora io credo che per questi motivi anche l'America forse può cercare di favorire una tregua senza la vittoria. E credo che il grande piano adesso sia quello della tregua contro la vittoria di uno dei due. Io non so dire altro, Chiedo scusa. Raccogliamo ancora l'ultima domanda, l'ultima osservazione, e poi ci avviamo verso le conclusioni e i saluti con Monsignor Bettazzi. Mi ha colpito, ascoltando, come è stato citato già prima, un sacerdote ucraino. Ho avuto modo di dialogare online in una serata di un'associazione culturale che si occupa di scambi ecumenici con un professore della Facoltà Teologica di Leopoli, e chiedendo come le chiese stanno vivendo questo dramma della guerra, diceva: unendosi maggiormente tra di loro è nato una sorta di ecumenismo della trincea, per cui chiese normalmente in lite in Ucraina siamo insieme nella resistenza, no? Nella guerra. E se da una parte noi siamo scandalizzati ovviamente dalla posizione del patriarca Kirill, che dice andate in guerra, morite pure, così andrete in paradiso, saranno perdonati i vostri peccati, dall'altra parte c'è anche una resistenza armata, anche benedetta per così dire. Però per noi di qui è facile giudicarla, se fossimo attaccati magari ragioneremmo in modo più simile a loro forse, ma è come se non si vedesse una profezia, ma ripeto, è facile dirlo dall'esterno, ma una profezia anche delle chiese in Ucraina, perché di lì potremmo anche magari aspettarci che almeno qualcuno abbia il coraggio di porsi come una forza di interposizione, senza che, cioè vuol dire magari anche con l'aiuto di altri, ma sembra che c'è talmente tanta sofferenza che l'unica reazione, anche appoggiata dalle chiese, addirittura con questa espressione terribile, ecumenismo della trincea, che avevo mai sentito, ma mi era gelato quando l'ho sentita pronunciare. Grazie. Il ruolo delle chiese nel conflitto, cioè le chiese però presenti sul territorio, si citava questo anche nel contesto dell'ecumenismo, quindi del dialogo tra le chiese, e c'è questo fenomeno dell'ecumenismo di trincea che diciamo sta maturando nei confronti anche della chiesa in Ucraina. Quindi quale può essere il ruolo del dialogo tra chiese su fronti diversi? Perché il dialogo si fa tra due persone che vogliono parlare. Se una delle due non vuole, non puoi fare il dialogo. Papa Francesco ha cercato in tutti i modi di fare il dialogo con la Chiesa ortodossa. Perché? Nel mondo ortodosso Ogni chiesa è strettamente legata al suo paese, al suo governo, come eravamo noi una volta, perché anche noi eravamo così. Allora, voi vedete, con la Chiesa russa è difficile parlare, perché il patriarca, io l'ho conosciuto 50 anni fa, era monaco a Leningrado e c'era un certo metropolita Nicodim con cui si era in dialogo con Pascristi. E Nicodim aveva come suo braccio destro Kirillos. Poi diventato patriarca, adesso la politica russa difende la Chiesa ortodossa e la Chiesa ortodossa deve difendere la politica russa. Con questo, tanto è vero che era andato anche dove, là in Asia, il Papa a un incontro e Kirillos non è andato, perché sa che ha trovato delle scuse, dice che noi col fatto degli omosessuali siamo contro la Bibbia. Ecco, non tiene conto di come invece, ecco. E allora è difficile, per tanto è vero che in Ucraina molti ortodossi dipendevano da Mosca, alcuni dal patriarca di Kiev, che è riconosciuto da Bartolomeo, ma non da quello di Mosca. Ma altri dipendono direttamente. Adesso, quelli che dipendono da Mosca, molti di loro si sono staccati perché sarebbero contro l'Ucraina. Quindi è difficile da avere il discorso perché è troppo legato con la politica. Papa Francesco, che ha il senso dell'ecumenismo, che cerca tutte le strade, era disposto, vedete, ad andare a Kiev se gli permettevano di andare a Mosca. A Mosca non ha voluto, allora ecco, non va neanche a Kiev. Cioè, non è facile, ma voi pensate che anche l'interno, quando hanno fatto a Cipro o a Creta, hanno fatto il grande sinodo ortodosso, che è come il nostro concilio, i russi non sono andati. Sarebbe come che noi al concilio ecumenico quelli dell'Australia non fossero venuti, avessero detto no, non veniamo. Cioè, il problema non è solo quello tra noi e loro, ma anche quello all'interno di loro. Poi è vero, lasciatemi dire, nei libri che ho lasciato c'è anche un libro intitolato Sognare eresie, perché quando il 9 dicembre del 2019 il Pontificio Seminario Regionale di Bologna, che celebrava 100 anni, è andato a Roma, è andato anche dal Papa, e il Papa nel discorso ha ringraziato il Cardinal Zuppi per quello che aveva detto. Poi dice: saluto allievi ed ex allievi, saluto anche Monsignor Bettazzi, che è quasi coetaneo del seminario del 19 o del 23. Allora sono andato dal Papa e gli ho lasciato il mio libretto, che ho lasciato anche una copia, il mio Concilio Vaticano II. E il buon Monsignor Georg, quello che era segretario di Benedetto, ha detto: saranno le sue solite eresie. Me l'ha detto sorridendo. Allora ho scritto un libro sulle mie eresie. È intitolato le mie, poi sembrava le mie, l'editore voleva le eresie di un vescovo, ma siccome nel libro dico che sognare non è peccato, sognare eresie. Sono eresie per modo di dire. Dire che Adamo ed Eva non sono due persone, ma sono un simbolo, questo lo dicono tutti. E che quindi il peccato originale non c'è. Cioè, non c'è peccato originale. qui la colpa è di Papa Benedetto XVI, perché quando era ancora cardinale disse alla Commissione Internazionale Teologica: io ho tre problemi, la natura della teologia, natura e soprannatura e limbo. Risolveteli. La commissione si è divisa in tre, una decina per parte, i primi due non hanno fatto niente. Ma la terza commissione sul limbo, presieduta da Monsignor, quello che è stato arcivescovo, Sanna, Ignazio Sanna, arcivescovo di Oristano, me l'ha raccontato lui, ci ha messo 2 anni, ma alla fine ha fatto un documento in cui dice: nella Bibbia non si parla di limbo, l'abbiamo pensato per dire l'importanza del battesimo. Ma allora la misericordia del Signore, la grazia, l'hanno portata da Ratzinger, diventato Papa, e lui l'ha firmata. Ha firmato che non c'è il limbo. E se non c'è il limbo, dove vanno i bambini appena nati? Non battezzati? Noi dicevamo vanno al limbo. No, se non c'è il limbo. Ma il mondo non è il mondo di Adamo. È il mondo di Gesù Cristo, lo dice San Paolo. Da lui e in vista di lui tutte le cose sono state fatte. Se il mondo di Gesù Cristo è un mondo soprannaturale. Uno nasce in grazia di Dio, come Adamo ed Eva, che sono nati in grazia di Dio, poi si sono chiusi. E allora ecco, peccato originale, tendenza originale a chiudersi. Ma finché uno non arriva alla tendenza originale, all'età della ragione, uno resta in grazia di Dio, mica solo i cristiani. Tutto è stato creato da Gesù Cristo e vita di Gesù Cristo. Tutta l'umanità, ogni essere umano che nasce, nasce in grazia di Dio. Poi se si mantiene aperto a Dio e agli altri, rimane in grazia di Dio, anche se non lo sa. Se invece si chiude, ah no, ma allora sei tu che ti chiudi nell'io. Io dicevo che Papa Benedetto ha aperto il paradiso a tutta l'umanità. Ecco, io credo che questo qui è per dire le eresie, eresie, cioè pensarci bene, scegliere bene. E credo che anche di fronte a questo problema della pace ognuno deve sentirsi chiamato a dire: io devo pensare qualche cosa, devo decidere qualche cosa. Potrò solo pregare, intanto prego. Oppure posso arrivare là, posso toccare là, posso qui, posso sollecitare. Ognuno di noi deve sentirsi responsabile in qualche modo del cammino vero della pace. Io non so dir altro, come non sapete dirlo voi. No, basta là. E questa credo che sia la conclusione unica che ci può essere della serata di oggi. Amen. Bene. Allora ringraziamo veramente tantissimo di cuore Monsignor Bettazzi per il dono prezioso che ci ha fatto quest'oggi. E non sto a ripetere le cose che ho già detto prima, lo stimolo, le suggestioni, gli slanci che ci ha fornito ancora adesso nelle ultime parole che ha pronunciato. Poi mettere a posto tutto il vostro vescovo. Quindi la ringraziamo ancora tantissimo, uniamo ai ringraziamenti per lei anche i ringraziamenti per la loro presenza, il nostro Vescovo Monsignor Prastero, il nostro Vicario Generale Don Marco Andina e tutti quanti voi. C'era un mio amico che concludeva sempre così: il Signore vi benedica nella crosta e nella molica. Io ricordo solo, per chi volesse continuare con tutti noi il percorso di approfondimento, di conversazione, di riflessione, che ci rivediamo martedì 14 alle ore 21 e nel seminario nella sala convegni del seminario vescovile, quindi in via Carducci, quindi ore 21 in seminario, per la continuazione di questo percorso con Domenico Quirico. E se tema la pace impossibile. Chi non potesse, la conferenza sarà trasmessa in streaming sul canale YouTube della biblioteca, quindi si può anche vedere da casa.